698. Frittata a sgonfiotto, ossia montata. È l'omelette soufflé dei francesi, che può servire come piatto dolce di ripiego, se non v'è di meglio, e quando rimangono chiare d'uovo. Zucchero in polvere grammi 100, rossi d'uovo numero 3, chiare numero 6, odore della scorza di limone. Sbattete prima per diversi minuti i rossi con lo zucchero. Poi montate le chiare ben sode ed unite le une agli altri insieme mescolando adagino. Ungete un vassoio che regga il fuoco con burro d'accio. Versate nel medesimo il composto in modo che vi faccia la colma e ponetelo subito nel forno da campagna tenuto pronto ben caldo. Dopo 5 minuti che è nel forno, fategli alcune incisioni col coltello e spolverizzatelo di zucchero a velo. Quindi terminate di cuocerlo, al che si richiedono 10 o 12 minuti in tutto. Badate che non bruci alla superficie e mandatela subito in tavola. Perché gonfi meglio, alcuni aggiungono un poco d'agro di limone nel composto.